in primo piano. Buongiorno, buon 31 dicembre da Giulia Crivelli. È l'ultimo giorno dell'anno, spero abbiate programmi di felici brindisi per finire bene quest'anno e iniziarlo altrettanto bene. Il Sole 24 Ore approfitta appunto del fatto che siamo al 31 dicembre per titolare così: fisco, lavoro, pensioni, le 50 mosse per il 2018. Alle pagine 2 e 3 tutte le novità, le opportunità, le possibilità che ci sono appunto su questi tre campi, su questi tre temi per l'anno che sta per iniziare. Altro articolo che vi segnalo dalla prima pagina, un altro bilancio, quello delle M&A, Mergers and Acquisitions, fusioni e acquisizioni, che nel 2017 hanno un pochino rallentato in Italia, non nel mondo. Le operazioni hanno avuto un valore corrispondente di 41 miliardi, però c'è un calo con questa cifra e questo numero di operazioni del 28%, rispetto al 2016. Il problema sono anche i tempi per la finalizzazione, perché in realtà gli annunci di M&A erano stati molti di più. Vi dicevo, tutti questi approfondimenti, questi 50 focus alle pagine 2 e 3. Il Corriere della Sera invece sceglie di titolare su un'intervista che poi trovate a pagina 3 al ministro degli interni Marco Minniti. Il virgolettato scelto per il titolo è: non sarà un voto inutile. Il ministro si auspica che venga subito approvata la missione in Niger, che sapete per la quale gli italiani si sono impegnati, una missione formalmente di pace. Dalla fotonotizia, finalmente oggi un po' tutti si sono accorti di quello che sta succedendo in Iran, dove siamo al terzo giorno, meglio ieri è stato il terzo giorno di cortei, non soltanto nella capitale Teheran ma in tante altre città. La fotonotizia è di una ragazza, di una manifestante, una studentessa che protesta, fotografata durante una delle proteste. Le proteste sono sostanzialmente contro le misure del governo Rouhani, quindi proteste per le condizioni economiche e sociali in questo momento dell'Iran. Il bilancio è ufficiale e anche abbastanza difficile da verificare, in ogni caso sarebbero almeno 6 i morti. Si registra naturalmente la reazione di Donald Trump, e approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, e a chi ieri diceva che così era un po' sorprendente citare Trump solo attraverso i suoi tweet. Purtroppo questa è la forma preferita di comunicazione del presidente Trump, dico purtroppo, perché certo che sarebbe forse meglio istituire delle conferenze stampa o dei messaggi radiofonici, come hanno fatto molti presidenti prima di lui. Lui preferisce esprimersi via Twitter, e ieri, per esempio, sulla questione dell'Iran ha twittato: il mondo vi guarda, i regimi oppressivi non sono eterni. La Repubblica, stessa scelta per la fotonotizia, anche se la foto è diversa, vittime in piazza, e poi tra l'altro all'interno, alle pagine 6 e 7, trovate anche un'intervista a Shirin Ebadi, che è un attivista per i diritti umani, un avvocato e attivista per i diritti umani in Iran, anche premio Nobel per la pace, che dice: i ragazzi non si fermeranno, perché appunto entrambe le foto, e non a caso sono state quella del Corriere e quella della Repubblica, sono state scattate nei pressi dell'università, perché vogliono un paese diverso. Il titolo però è dedicato al Movimento 5 Stelle. Il codice del Movimento 5 Stelle divide, sapete che c'è la questione delle multe che verranno, teoricamente sono state annunciate, per chi dovesse lasciare il Movimento 5 Stelle per abbracciare un'altra formazione durante la legislatura, dopo essere stato eletto nelle liste del Movimento 5 Stelle. E intanto, secondo un sondaggio di Repubblica, Di Maio come candidato premier è in crescita di consensi. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, la grafica di copertina è un 8 tricolore, il titolo 8 volante. Arriva il 2018, l'anno della grande incognita, l'Italia ha le vertigini tra cambiamenti e ritorni, come nel 68, nel 78 e nel 2008. Un numero speciale, con il calendario della politica da staccare e conservare. Un numero speciale, naturalmente, non 2018 né 8, ma il numero speciale dell'Espresso. Un messaggero, un titolo ancora diverso, perché tra i molti contratti che sono che devono essere perfezionati, rinnovati, cioè quello della scuola è stato rinnovato, quello della pubblica amministrazione. Ora, secondo l'intervista che il Messaggero ha fatto al ministro dell'istruzione Fedeli, Valeria Fedeli, dice siamo pronti a firmare, le risorse necessarie sono in arrivo. In questo nuovo contratto sarebbero previsti aumenti fino a 200 euro, nello stipendio entreranno bonus e incentivi e c'è un tavolo con i sindacati naturalmente che è stato anticipato al 2 di gennaio, quindi martedì. Trovate l'intervista a Valeria Fedeli alla pagina 3 del Messaggero. La stampa ha, come a volte fa, quando considera insomma, la giornata particolare, questa lo è, domenica 31 dicembre, c'è una doppia copertina, sulla prima c'è la fotografia, uno scatto del fotografo senegalese Alun che ritrae una ragazzina con gli abiti tradizionali del suo paese africano e un visore di realtà virtuale. È la foto scelta da Maurizio Molinari, direttore della Stampa, per il suo editoriale In bilico sulla storia, guardando al nuovo anno. Copertina vera e propria, invece, proprio con il titolo di apertura sull'Iran, Pugno duro in Iran. La fotonotizia è dedicata invece alle nuove regole volute per l'Everest, mai più scalate in solitaria. In primo piano. Ancora buongiorno, buon 31 dicembre da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Quella dell'Avvenire si dedica al fatto che oggi è si festeggerà, non oggi ma domani, si festeggerà la 51esima giornata mondiale della pace, e però stasera c'è la 50esima edizione della Marcia per la Pace. E quindi naturalmente Papa Francesco si è già espresso su questi temi, lo farà ancora, anche perché in molte parti del mondo altro che pace, ci sono o focolai di guerre o guerre vere e proprie. La fotonotizia è dedicata all'Africa e a quella sfida tra Russia e Cina per le risorse, le moltissime risorse naturali che ha il continente. Il tema è anche quello delle armi, un po' perché le armi che comunque servono per tutti quei focolai di guerra o guerre vere e proprie che ci sono in Africa vengono soprattutto dall'Occidente, e questo si riverbera sulle industrie belliche anche non soltanto occidentali, o se vogliamo comunque considerare la Russia un'estensione dell'Europa, l'industria bellica russa, e quindi gli affari del Cremlino, export bellico con il vento in poppa, vendite per miliardi in 15 nazioni. E invece un po' la strategia della Cina, che viene definita dall'Avvenire gli artigli del dragone, l'onda lunga dei massicci investimenti, ora prova anche a governare la politica. Naturalmente si approfitta anche dei tanti cambi di governo che ci sono in questo momento in Africa. Sappiamo della Liberia, dove si insedierà l'ex campione del Milan, nonché pallone d'oro, George Weah, ma anche lo Zimbabwe, dove è appena stato cacciato Robert Mugabe. E, scrive l'Avvenire, sono comparsi i blindati made in China. Libero lo stangator cortese, il riferimento è al ministro delle Infrastrutture Delrio, che scrive Libero, ci impone il digiuno. Il riferimento è al fatto che Delrio aveva fatto una sorta di sciopero della fame quando il Parlamento continuava a far slittare l'esame della legge sullo Ius Soli, che poi sappiamo è slittata definitivamente. Il ministro dei trasporti saltava i pasti, mandava la guardia costiera a salvare i clandestini in mare. Agli automobilisti invece riserva rincari fino al 52% sui pedaggi autostradali. Così la dieta la farà fare agli italiani. Il riferimento naturalmente è a tutti quei rincari che sono stati annunciati nei giorni scorsi. Sapete che il meccanismo è che le società di gestione delle autostrade propongono i loro piani di rincari, il Ministero delle Infrastrutture li deve approvare o rigettare. In questo caso molte delle proposte sono state approvate. Rafforzare la polemica è il fatto che i bilanci di molte di queste società che hanno in concessione le autostrade nel 2017 hanno registrato profitti record. La verità ha un reportage molto particolare. L'inviata della Verità è andata in una clinica di Londra che cambia il sesso ai bambini anche di 4 anni. Ogni anno migliaia di genitori portano in questa struttura pubblica i propri figli, che vengono sottoposti a terapie psicologiche riempiti di ormoni per bloccarne lo sviluppo finché non decidono che corpo vogliono. E alla Verità questa sembra una decisa forzatura. Il giornale apertura sull'intervista che il direttore del quotidiano Alessandro Sallusti ha fatto a Silvio Berlusconi. Berlusconi, due punti, cosa farò? La mia ricetta per combattere povertà e immigrazione è imposte. In molti hanno provato a distruggermi, ma io sono ancora qua. L'intervista inizia sulla prima pagina del giornale e poi prosegue per tutta la pagina 3. Il Fatto Quotidiano apre su un sondaggio, anzi mette insieme più sondaggi, e il titolo è «Ecco che cosa succede nelle urne, votando oggi». Berlusconi e la sua coalizione sfiorerebbero il 40%, cioè la maggioranza. Per vincere dovrebbero crescere dal 58% al 70% dei collegi. Movimento 5 Stelle e centrosinistra sotto di 10 punti, salvo sorprese, puntini, puntini, perché effettivamente mancano 2 mesi e qualche giorno al voto, quindi appunto se si votasse oggi la situazione sarebbe questa, poi si vedrà. Il Manifesto apertura, la classica apertura con il titolo sopra alla fotografia, è Controordine, è il riferimento, la fotografia vede Beppe Grillo e Luigi Di Maio che si guardano e si stringono la mano. Controordine perché? Perché si fa riferimento a questa rivoluzione pentastellata alle urne, con le candidature aperte agli esterni neo iscritti, possibilità di alleanze di governo, obbligo di votare la fiducia, multe salate a chi cambia casacca o dissente. Sopra, subito sopra però, questa foto con il titolo Controordine, un riferimento allo Yemen, che dove sappiamo c'è una guerra, lo Yemen è sotto le bombe da circa 1000 giorni ed è anche piagato dalla più grande epidemia di colera degli ultimi anni, sono poco meno di 1 milione, si calcola, le persone che appunto sono state contagiate. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sul Sole 24 Ore. La sezione della domenica con gli incontri a tu per tu, la serie di incontri a tu per tu questa settimana è quello di Nicoletta Polla Mattiot, che è la responsabile, il direttore di How to Spend It, la versione italiana del magazine inventato da Financial Times, e questo l'incontro è con Rosita Missoni, che è la vedova di Ottavio Missoni, ma è anche ancora il simbolo dell'azienda di famiglia. Negli ultimi anni, più che a occuparsi della parte abbigliamento e accessori dell'azienda di cui si occupa la figlia Angela, si è occupata soprattutto della parte di arredamento per la casa. Il titolo di questo incontro, un lungo resoconto appunto a pagina 10 del Sole 24 Ore, è «La vita, un patchwork di emozioni». Le foto dell'amato Monte Rosa, perché Rosita Missoni e la famiglia vivono vicino a Varese e da lì vedono tra l'altro delle montagne bellissime, perché sono anche profondamente amanti della montagna. Il cibo, i nipoti, saggezza e memoria di una signora della moda. Quando Angela ha preso in mano l'azienda ero sollevata, Angela appunto la figlia, ma non potevo fare solo la nonna, mi mancava il lavoro, e da qui appunto anche l'impegno che non si ferma per tutta la divisione tessile e soprattutto di tessile per la casa, con quei colori che hanno reso Missoni famosa nel mondo. Una bella storia ce la racconta Giovanna Mancini a pagina 13 del Sole 24 Ore, Firenze rilancia l'opificio. Il progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha permesso di rilanciare questa storica istituzione fiorentina, si chiama, il nome completo è Opificio delle Pietre Dure, dove si impara, si insegna l'arte del restauro e anche la ricerca sulle nuove tecniche, su come la tecnologia può aiutare il restauro. Passiamo invece al Corriere della Sera, un divertente articolo di Francesco Piccolo, che sapete è scrittore, sceneggiatore, oggi è il 31 di dicembre e quindi lui scrive questo manuale, questo antimanuale del veglione, il tappo che salta con 6 secondi di anticipo, credo più o meno sia successo a tutti, i bacini agli sconosciuti, gli sms a raffica, probabilmente hanno già iniziato ad arrivare, e poi uno dice: per me il vero inizio settembre, una frase che sicuramente abbiamo sentito tanti e che per certi versi è anche molto vera, coincide con, in generale, con il ritorno dalle ferie estive, con l'inizio dell'anno scolastico, però insomma questo è innegabile che è il primo gennaio. E il Corriere della Sera fa anche una schedina e spiega che il primo gennaio venne stabilito come primo giorno dell'anno dopo l'introduzione del calendario giuliano promulgato da Giulio Cesare nel 46 a.C. In precedenza, pensate, il nuovo anno veniva fatto iniziare il primo marzo. La festa di Capodanno trae origine dai festeggiamenti in onore del dio romano Giano e i primi luoghi a festeggiare il nuovo anno sono gli atolli, naturalmente per questione di fuso orario, gli atolli di Tokelau, mentre l'ultimo avamposto è l'isola Baker. A proposito di sms, grazie ancora a tutti gli ascoltatori che stanno mandando sms o whatsapp al 349-238-6666, magari per commentare la rassegna come sempre e anche per fare gli auguri che naturalmente io e tutte le persone che lavorano a Radio 24 ricambiamo. A pagina 29 del Corriere della Sera una lunga intervista di Aldo Cazzullo a Francesco Gabbani, il vincitore del Festival di Sanremo del 2017, il virgolettato scelto per titolare l'intervista, dove però si parla di tante altre cose: sono stufo della scimmia, la famosa scimmia, naturalmente era una persona dentro a un costume da scimmia che ballava con lui sul palco di Sanremo quando ha cantato la sua canzone Occidentali Scarma, che poi ha vinto il festival. Sono stufo della scimmia, non ha vinto lei Sanremo. Molto bella un'altra storia di un altro italiano, la racconta Fausta Chiesa, pagina 35 del Corriere della Sera, è quella di Alessandro Goppion, che tra l'altro è anche cavaliere del lavoro ed è figlio del fondatore dell'omonima azienda che è specializzata in vetri, ma credo ne abbia parlato anche qui su Radio 24 una trasmissione, mi sembra di aver sentito proprio un bel ritratto di questa azienda. Produce vetri molto speciali perché negli anni si è specializzata in teche, e quindi le teche blindate più usate nei musei, perché più è preziosa l'opera d'arte più va protetta, sono fatte appunto dalla Goppion, il vetraio italiano che protegge la Gioconda. Dal Corriere dalla Repubblica, vi dicevo, due pagine sull'Iran: da una parte la cronaca e dall'altra l'intervista a Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace, avvocato per i diritti umani, che dice: questi ragazzi così giovani non si fermeranno, vogliono un paese diverso. Sempre invece dal Messaggero c'è una pagina dedicata al clima estremo. Da una parte il clima estremo che c'è in questo momento in Canada, perché c'è un inverno, come del resto sulla costa est degli Stati Uniti. Abbiamo visto ieri il tweet ironico di Trump a cui ha risposto un climatologo. E in Canada poi in particolare invece addirittura il termometro è sceso sotto i meno 30 gradi, ad Alberta meno 32. Da qui il titolo: Canada gelo record battuto anche Marte, perché si calcola che in questo momento sulla superficie del pianeta rosso ci siano meno 19 gradi. E nella regione della Nuova Scozia canadese 160.000 famiglie sono senza energia elettrica, e siccome anche a New York fa molto freddo, non faceva così freddo dal 1933, forse ci saranno festeggiamenti per il Capodanno un po' diversi, o comunque insomma verranno avvertiti tutti che è molto pericoloso stare fuori con queste temperature, stare all'esterno con queste temperature, perché a volte non ci si rende neanche conto di quanto è fredda l'aria che si respira. E c'è una foto proprio di New York con la fontana ghiacciata di Bryant Park, una sorta di concentrato di stalagmiti e stalattiti. Ma vi dicevo, sono due le notizie, perché nella stessa pagina c'è un reportage di Italo Carmignani da Arquata del Tronto, perché anche in quelle zone, le zone dove colpite dal terremoto, ci sono notti ghiacciate. Italia, notti di ghiaccio nelle casette post-sisma, le zone del terremoto sotto la neve e nei prefabbricati piove, presumibilmente se nevica anche dentro. La protezione civile ha risposto: correremo ai ripari. Speriamo, insomma, io continuo a non perdo occasione, cerco di non perdere occasione per parlare di questa questione, perché non abbiamo meno 32 gradi come ad Alberta, ma anche soltanto se piovesse o se si fosse vicino allo zero in quelle zone, le zone appunto colpite dal terremoto, si soffre ancora di più che altrove. Dalla stampa, la stampa ha anche un supplemento con le fotografie e i commenti per raccontare il 2017, quindi prima di guardare al 2018, un ultimo sguardo al 2017, ci fermiamo però un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buon ultimo dell'anno da Giulia Crivelli. Per quest'ultima parte della rassegna stampa vi segnalo da Libero due articoli molto curiosi. Uno prende spunto da un articolo apparso sulla rivista americana scientifica Animal Cognition e riguarda le galline, in particolare il loro cervello, no? Si dice sempre, non so, sei stupida come una gallina o stupido come un pollo. Ecco, Giorgia Danesi, che ha letto questo articolo, intitola il suo pezzo di oggi: no, la gallina non è una scema, se lo pensi il pollo sei tu. Sfatato i luoghi comuni sulla regina dei cortili, ha una vista eccezionale, un linguaggio complesso e la sua intelligenza è all'altezza di quella di mammiferi molto più quotati. E a proposito di animali, per chi volesse fare una gita a Torino o per chi ha la fortuna di abitare a Torino, fino all'8 gennaio al Museo del Cinema ci sono si possono vedere tutti i piccoli i video dedicati agli animali e in particolare ai gatti. Sapete che hanno sempre un grandissimo successo ogni volta che vengono postati su internet o su qualche social network. Sulla questione del linguaggio cosiddetto, l'espressione l'hanno inventata gli americani, politically correct, cioè politicamente corretto, che sostanzialmente vuol dire sforzarsi di non offendere nessuno. Quello che ha riacceso un po' la discussione è stato il famoso editoriale di Marco Travaglio, che invocava, sperava che la legislatura fosse sciolta nell'acido. La reazione di Lucia Annibali, che non ha sottolineato che forse si poteva usare una parola diversa, visto che l'acido nel suo caso per esempio è stato usato per sfregiarla, però insomma, appunto, per dire che una legislatura viene disprezzata così tanto, era il caso di Marco Travaglio, secondo lei si potevano usare altre parole. Lui ha risposto piccato su Facebook che no, che questa è appunto una forma di prepotenza verbale da chi vorrebbe proibire l'uso di alcune parole. E da qui ieri un articolo di Selvaggia Lucarelli, di Filippo Facci, li abbiamo citati. Oggi un'altra pagina, il politicamente corretto, Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano, pagina 5, nuovo manganello del potere. Ma passiamo invece ai supplementi domenicali, e per fortuna oggi il Sole 24 Ore e il supplemento domenicale sono in edicola, sapete non lo erano domenica scorsa. Tra l'altro approfitto per ricordarvi che domani non ci saranno quotidiani, nessun quotidiano sarà in edicola, perché oggi, che è il 31 dicembre, per una strana così, quella che a me continua a sembrare un'anomalia, i giornalisti che lavorano nei quotidiani hanno un giorno di vacanza, mentre naturalmente i nostri colleghi di Radio 24, come avete sentito anche dal GR, invece lavorano a pieno ritmo, quindi gli aggiornamenti li avrete comunque qua, mentre domani i giornali non ci saranno, torneranno tutti in edicola il 2 di gennaio. La copertina del domenicale, come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Piccoli passi ed è una citazione di Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Signore, non ti chiedo miracoli e visioni, ma forza per la vita quotidiana. Insegnami l'arte dei piccoli passi. Era abituato ai voli del suo aereo e da uno di questi viaggi nel cielo, il 31 luglio 1944, in pieno conflitto mondiale, non tornò più, rimanendo così avvolto nel mistero di una fine ignota in mare. L'anno prima, a 43 anni, aveva pubblicato Il Piccolo Principe, una fiaba eterea divenuta il suo capolavoro, destinata a far sognare bambini e adulti. Stiamo parlando dello scrittore aviatore Antoine de Saint-Exupéry. Sua è l'invocazione che abbiamo voluto proporre alle soglie di un nuovo anno. È una preghiera semplice, ancorata alla terra, alla quotidianità, ai piccoli passi, pazientemente conquistati, mettendo un piede dietro l'altro, spesso su terreni infidi o sassosi. Pur dichiarandosi agnostico, questo scrittore irradiava non di rado nelle sue righe una luce religiosa, una fede primordiale, e questa mini orazione ne è una testimonianza limpida e semplice. È l'appello a una fedeltà coraggiosa, priva di atti eroici, ricca di sacrifici umili e segreti, capace di dare senso, colore e calore allo scorrere dei nostri giorni. Mi sembra un bellissimo augurio per il 2017, questo dei piccoli passi. La copertina vera e propria però è un lungo intervento di Ermanno Cavazzoni, che in un certo senso, anzi senza in un certo senso, sì, comunque parla dell'ultimo dell'anno e dell'inizio dell'anno. Il titolo: L'imbuto di mezzanotte. Desideri e frustrazioni tendono a accumularsi nella strettoia mentale di fine anno, ma stappare lo champagne è più facile che affrontare l'ingorgo. Dalle pagine interne, una bellissima recensione di Eliana Di Caro al secondo capitolo di quel libro che ha avuto così tanto successo, Storie della buonanotte per bambine ribelli, perché è appena uscito negli Stati Uniti. Il seguito di questo libro, che si intitola Good Night Stories for Rebel Girls 2, e speriamo che venga prestissimo tradotto in italiano, quindi altre 100 vite di donne che ce l'hanno fatta, con altrettanti disegni, perché questo è stato sicuramente parte del successo del libro: da una parte le storie e dall'altra questi bei disegni. Il primo volume ha venduto 1 milione di copie, ci racconta Eliana Di Caro, in tutto il mondo, ed è stato tradotto in 39 lingue. Ah, ecco l'informazione che cercavo: il secondo capitolo sarà tradotto in Italia a fine febbraio. A proposito di libri, purtroppo abbiamo sentito i dati dell'Istat che indicano come un italiano su due non abbia letto nemmeno un libro nel 2017. È un peccato, e si perde sicuramente un piacere, un'occasione di tanti tipi di opportunità non leggendo, anche perché ci sono così tanti tipi diversi di libri da leggere che mi riesce impossibile pensare che non ci sia qualcosa che potrebbe interessare a qualcuno di questi 50% degli italiani che non hanno aperto un libro nel 2017. Lo spunto è quello del saggio di Giuseppe Montesano, appena pubblicato da Bompiani, Come diventare vivi, un vademecum per lettori selvaggi, e la lunga recensione di Domenico Scarpa, scrittore a sua volta. Leggere ci aiuta a disconnetterci dalla contemporaneità, ed è allora che si vive una vita migliore, forse proprio la nostra. Una bellissima mostra, un bellissimo resoconto di quello che un grande pittore, famoso soprattutto per i suoi acquarelli, vide e poi riportò nei suoi disegni a Milano, è in un libro di Federico Crimi, pubblicato da Archinto, che si chiama JMW Turner a Milano. Turner turista a Milano, i disegni poco noti realizzati dal grande vedutista inglese durante i suoi soggiorni milanesi tanto tempo fa, quindi non è certo la Milano di oggi, però è una Milano che sicuramente vale la pena ricordare, perché lui la visitò tra il 1819 e il 1829. Un'ultima segnalazione, sempre a proposito di arte, per chi magari in questo periodo ha tempo, ha voglia, ha possibilità di viaggiare: a Parigi, alla Fondazione Louis Vuitton, che è diventato uno dei musei più importanti di Parigi, anche un'opera architettonica che da sola vale una visita, in questo periodo ospita una grande selezione di quadri provenienti dal MoMA, il Museum of Modern Art di New York, che è chiuso per ristrutturazioni fino al 2019, e questa è l'occasione per riportare 200 opere nella capitale francese dove furono concepite, da qui il titolo Le MoMA a Paris, quindi un doppio riferimento a Parigi, nel senso che appunto le opere sono state riportate lì, ma queste 200 opere scelte erano state anche concepite in Europa. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, la copertina è affidata a un artista, questa settimana a Paolo Conte, sì, proprio Paolo Conte, il cantante, cantautore, che però ha anche evidentemente una passione per il disegno, per l'arte, e quindi in copertina alla lettura appunto questo disegno. Molto interessante lo sguardo di Vincenzo Trione su questo 2017 che si chiude, ma che offre anche alcuni spunti su una tendenza che potrebbe proseguire nel 2017, nel 2018. Si intitola l'articolo di Vincenzo Trione, che sapete, curatore, esperto d'arte, curatore di mostre, anche curato il Padiglione Italia alla Biennale. Il titolo è Il naufragio della civiltà, Alejandro Iñárritu e Ai Weiwei. Quindi Alejandro Iñárritu, il famoso regista, Ai Weiwei, l'artista cinese, e poi il regista libanese Ziad Weiri, lo scrittore pakistano Mohsin Hamid. Così l'arte, ogni forma d'arte, ha adottato, reinterpretato e denunciato il tema chiave non solo del 2017, le migrazioni. Mai come oggi, pittori, cineasti, performer e narratori hanno dedicato energie a una questione che sta cambiando le geografie urbane e i sentimenti sociali. E quindi qui si raccolgono in questa pagina appunto di Vincenzo Trione alcune delle esperienze più significative. Robinson, il supplemento della domenica di Repubblica, invece si dedica all'oroscopo. Lo fa in un modo un po' particolare perché affida la risposta, come si fa a credere all'oroscopo, a personaggi come Massimo Cacciari, Melania Mazzucco, Massimo Recalcati, Silvia Ronchey e Benedetta Tobagi. E poi però c'è anche un oroscopo vero e proprio di Marco Pesatori, che sapete è l'oroscopista ufficiale del gruppo Espresso. Insomma, si può credere o non credere all'oroscopo, ma credo che pochi di noi resistano alla tentazione di andare a leggere il proprio oroscopo quando lo trovano su qualche rivista o su qualche quotidiano. A proposito di interviste, la copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero, è una lunga e bella intervista a Pollini, il grande pianista, Maurizio Pollini. E il virgolettato scelto da Simone Antonucci per titolare l'intervista è Le mani e il cuore sono un unico spartito. La passione per l'arte e l'impegno civile, uno dei più grandi pianisti viventi, racconta la sua vita accanto al pianoforte. A 75 anni mi sento dire che il tempo passa lasciando cose belle, ma purtroppo passa. Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, come sempre una lunga recensione in prima pagina, e questa settimana è un carteggio tra la filosofa Hannah Arendt e Günther Anders. Il libro appena stato pubblicato da Carocci si intitola Scrivimi qualcosa di te, lettere e documenti dopo il divorzio di storia e politica. L'ultima segnalazione per oggi ve la faccio dal giornale, che ha un supplemento dedicato ai numeri del 2017, pieni di curiosità. Tra l'altro ritroviamo anche Francesco Gabbani, che ci racconta Paolo Giordano, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono e spesso ospite di Marta Cagnola, critico musicale del giornale, le hit di Gabbani dopo il Karma di Sanremo. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Come vi dicevo, domani niente giornali, programmazione un po' speciale a Radio 24. Poi il 2 di gennaio, che è martedì, torna Luca Telese dalle 6:30, e naturalmente poi anche la parte con Oscar Giannino, che invece in vacanza non ci è proprio andato, dopo il GR delle 8. Da parte mia, Giulia Crivelli, ancora un grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questo anno, e soprattutto brindate bene questa sera, iniziate bene il 2018 e appunto vi auguro che sia un bellissimo anno.